Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Prendiamola da un punto di vista positivo, cioè nel senso che in quel caso effettuare una chiusura, diciamo, a livello locale e limitata nel tempo potrebbe ridurre danni maggiori rispetto a quelli che invece possono derivare, per esempio, dal fatto di non prendere determinate misure. È chiaro che ciò può e deve forse avvenire laddove si verifichi una situazione di insostenibilità sostanzialmente di sovraccarico delle strutture, anche delle strutture sanitarie, tale da determinare la necessità di prendere quella misura. Quella misura, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, secondo il professor Giovanni Rezza, che è direttore della prevenzione del Ministero della Salute, sarebbero dei mini lockdown, cioè delle chiusure generali territoriali, per esempio di un comune, di una città, di una regione, man mano allargandosi e così via. E diciamo che sono dei termini che nelle ultime ore stanno abbastanza ripetendo. Fra tutti Walter Ricciardi, che è consulente del Ministero della Salute, ha detto oggi, ha insistito sul fatto che lui vedrebbe bene per Milano e Napoli, due città come queste, un lockdown, dice, altrimenti qui non ci riprendiamo più. Polemiche, visioni diverse da parte degli esperti, divergenze anche nella politica, insomma è complicato capire che cosa è giusto fare, che cosa si deve fare. Ce ne occuperemo, così come ci occuperemo del fatto che il Consiglio dei Ministri questa sera ha varato il decreto indennizzi, il decreto ristori per tutte quelle attività economiche e produttive che devono fermarsi, devono chiudere per contrastare il Covid o devono ridurre i propri orari. Quindi un sacco di cose da raccontarvi che voi potete commentare come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i vostri WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Prima di approfondire i vari temi, alcuni ve ne anticipavo con gli ospiti, sintesi della giornata. A proposito dei contagi, in Italia quasi 22.000 sono i nuovi casi in un giorno, le vittime nelle ultime 24 ore sono 221 ed è il dato più alto dal 5 maggio. Allarme dei medici ospedalieri, dicono mancano 4.000 specialisti. L'appello di Walter Ricciardi, a Milano e Napoli necessari lockdown. Anche Giovanni Rezza del Ministero della Salute parla di mini lockdown territoriali opportuni. Indennizzi, varato il decreto ristori, il governo stanzia più di 5 miliardi per risarcire le attività costrette con l'ultimo DPCM a chiudere o a ridurre gli orari. L'allarme dell'OMS, in Europa in una settimana un 40% in più di morti per coronavirus rispetto alla settimana precedente. Polonia, quinto giorno di proteste contro il governo. Intanto la Commissione europea ammonisce Ankara per gli attacchi alla Francia. Italiani residenti all'estero sono 5 milioni e mezzo, sempre più giovani. Conte dice bisogna dare degli incentivi per i rientri. Partiamo quindi dai dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Quasi 22.000 sono i nuovi contagi in un giorno. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 221, che è il dato più alto dal 5 maggio. In tutte le regioni l'indice di contagio RT è superiore a 1. Aumenta il numero dei casi e le risorse fanno fatica a soddisfare il tracciamento. A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus, perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del paese no. A dirlo Walter Ricciardi, ordinario di igiene dell'Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute. Ma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, rispedisce al mittente la proposta. Escludo che ci siano le condizioni per ipotesi di questo genere, ribadisce Fontana, ma sulla necessità di assumere misure per contenere i contagi, arrivati a un numero insostenibile, interviene Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Arrivare a 20-21.000 casi al giorno vuol dire dover tracciare 5-10 casi almeno per ognuno, quindi sono numeri molto significativi, difficilmente sostenibili sistematicamente, e quindi laddove si fa fatica a tracciare scatta una nuova fase che si chiama mitigazione. E da Nao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, arriva l'allarme sulla carenza di specialisti. Mancano ben 4.000 medici, ossia 2.000 rianimatori e altri 2.000 tra infettivologi, pneumologi e internisti, oltre a 7.000 infermieri. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo sarà uno dei temi di approfondimento con il segretario generale dei medici ospedalieri, che sarà in collegamento qui a Effetto Notte. Con l'aggravarsi della seconda ondata tornano le conferenze stampa delle autorità incaricate di contrastarla in Italia. A partire da oggi ogni settimana sarà previsti 3 incontri con la stampa, si legge in un comunicato del Ministero della Salute. Questo è un segnale. L'allarme dell'OMS: in Europa in una settimana un 40% in più di morti per coronavirus rispetto alla settimana precedente. Quasi 22.000 nuovi positivi a fronte dei circa 175.000 tamponi, i morti sono 221, il numero più alto dal maggio scorso. Scende però il tasso di positività, oggi al 12,6%, un punto percentuale in meno rispetto a ieri. La Lombardia supera i 5.000 casi, seguita dalla Campania, dove sono quasi 2.800 i nuovi positivi, e dal Piemonte, che ne ha registrati quasi 2.005. Non va meglio in Europa, dove la situazione è passata da preoccupante ad allarmante, avverte il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Se la Francia, dopo il fallimento del coprifuoco, starebbe pensando ad un nuovo lockdown generalizzato, la Germania, con 11.500 nuovi casi, si prepara a nuove strette, come la chiusura di ristoranti e bar e l'annullamento di tutti gli eventi pubblici. Lockdown parziale che scatterà in Russia domani, con i locali che resteranno chiusi dalle 23 alle 6. In Russia 16.500 nuovi casi e 320 le persone morte nell'ultimo giorno, record assoluto nel paese. 1.260 nuovi contagi in Grecia, mai così tanti. In Spagna i medici hanno indetto uno sciopero di 24 ore per protestare contro il mancato rafforzamento sanitario da parte del governo. Intanto la Svezia, l'unico paese al mondo a non avere mai imposto il lockdown, si ritrova con quasi 1.900 nuovi contagi in 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo adesso degli indennizi. Il Consiglio dei Ministri ha varato nel tardo pomeriggio il decreto ristori. Il governo quindi stanzia più di 5 miliardi per risarcire le attività che sono state costrette, con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, a chiudere o a ridurre gli orari. Sentiamo come. Arrivano indennizzi a fondo perduto a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle restrizioni dell'ultimo DPCM, senza limiti di fatturato e con un tetto massimo di 150.000 euro per impresa. Rispetto al decreto rilancio, che assegnava aiuti tra il 10 e il 20% del calo di fatturato, gli aiuti saranno pari al 150% delle cifre di luglio, una volta e mezzo, per alberghi e case vacanza, tra il 150 e il 200% per ristoranti, bar, locali, gelaterie. Pari al 200%, il doppio per cinema, teatri, palestre, piscine, sale giochi, parchi divertimento. Pari al 400% per le discoteche. Aiuti come nel decreto rilancio anche per taxisti ed NCC. Per il settore ristorazione l'indennizzo dovrebbe dunque coprire il 40% delle perdite. A questo si aggiunge l'esenzione IMU o il credito d'imposta per l'affitto per 3 mesi e la cassa integrazione per i dipendenti. Nel decreto c'è infatti anche la proroga della cassa Covid per 6 settimane oltre il 15 novembre, con blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio. Previsti 1.000 euro per i lavoratori stagionali dello spettacolo intermittenti e altre 2 mensilità per il reddito di emergenza. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda le proteste, o meglio gli scontri violenti di questi giorni, le proteste sono democratiche, ma ci sono state anche dei violenti che hanno devastato anche le vetrine di diverse città, sono 28 le persone, 18 italiani e 10 stranieri, denunciate a seguito degli incidenti di ieri a Milano in una manifestazione non autorizzata contro il nuovo DPCM per contenere il coronavirus. 13 dei denunciati sono minorenni, una decina tra le forze dell'ordine, e i feriti negli scontri di Torino, dove sono state arrestate 5 persone. Nuovi disordini si sono verificati a Roma, bombe carta, cariche della polizia. La Procura di Milano aprirà un'indagine, possibile una regia comune con un collegamento tra gruppi ultra di tutta Italia. Domani la ministra dell'Interno Lamorgese riunisce il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza. Ora all'estero, migliaia di persone hanno preso parte oggi per il 5° giorno consecutivo alle manifestazioni in Polonia per protestare dopo la decisione della Corte Costituzionale che vieta l'aborto anche in casi di grave malformazione e malattia irreversibile del feto. Migliaia di persone hanno preso parte oggi per il 5° giorno consecutivo alle manifestazioni in diverse città della Polonia per protestare dopo la decisione della Corte Costituzionale che vieta l'aborto anche in casi di grave malformazione e malattia irreversibile del feto. A Varsavia il traffico è stato fermato nelle vie del centro. Gli obiettivi della protesta sono il governo, guidato dal partito di destra e populista Diritto e Giustizia, e il Tribunale Costituzionale. Le manifestazioni sono molto partecipate e vanno contro il divieto di assembramento previsto per contenere il contagio da coronavirus che nel paese sta aumentando rapidamente. Ci sono stati scontri con la polizia e in alcuni casi con gruppi di estrema destra che organizzavano contromanifestazioni. La sentenza del Tribunale Costituzionale polacco è arrivata in risposta a un appello alla Corte da parte di un centinaio di parlamentari che sostenevano che l'interruzione di gravidanza a causa di malformazioni fetali violasse i principi della Costituzione che protegge la vita di ogni individuo. La sentenza non è ancora entrata ufficialmente in vigore, ma quando succederà in Polonia saranno legali le interruzioni di gravidanza soltanto in caso di stupro o di grave minaccia alla vita o alla salute della donna. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le scuole francesi renderanno omaggio il 2 novembre, giorno di rientro dalle vacanze, a Samuel Paty, l'insegnante ucciso e decapitato il 16 ottobre a nord di Parigi per aver mostrato in classe delle vignette satiriche su Maometto nell'ambito di una lezione sulla libertà di espressione. Parliamo di italiani all'estero che sono 5 milioni e mezzo regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nel 2006 erano 3 milioni e 1 con una crescita in 15 anni del 76,6%. Lo riferisce il rapporto sugli italiani all'estero di Migrantes. Negli anni si è ridotta la differenza di genere e abbassata l'età media. Per il presidente del Consiglio Conte ai giovani all'estero dice dobbiamo offrire incentivi per tornare. E con gli spettacoli in totale chiusura continua a lavorare e intrattenerci la televisione, oltre naturalmente alla radio. Due grandi eventi musicali partono giovedì, mentre ci si comincia a interrogare anche sul prossimo Festival di Sanremo. Sanremo 2020 è stato l'ultimo evento prima della pandemia e Sanremo 2021 dovrebbe essere quello della rinascita, Covid permettendo. Intanto di certo c'è che parte il giovedì in seconda serata Ama Sanremo, una nuova gara per stabilire gli artisti che comporranno la categoria Nuove Proposte e che per il festivalone si continua a lavorare, dice Amadeus. Stiamo lavorando pensando di fare Sanremo dal 2 al 6 marzo. Solamente a gennaio potremo valutare qual è la situazione reale in quel momento, ma rimane che deve essere un Sanremo della rinascita, di positività e di gioia, non certamente un Sanremo dimesso, questo non c'è dubbio. Il giovedì sera Ama Sanremo si scontrerà con i live di X Factor che partono su Sky. Anche qui si fanno i conti con un presente difficile, la curatrice Eliana Guerra. Abbiamo scelto proprio di rinunciare al Loft, che è stato uno dei luoghi emblematici sempre di racconto. I ragazzi vivono singolarmente, siamo costretti a rinunciare a tutta una parte di situazioni un po' più unofficial, collettive, che ovviamente non possiamo portare avanti in alcun modo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece andiamo sulla Champions League, che ritorna, Champions League maschile, con il nostro Dario Ricci. Una partita è già finita, quella dell'Inter, vero Dario? C'è in campo l'Atalanta. Sì, proprio così. Tra l'altro invece per il calcio femminile, sottolineo, cara Roberta, come tu ben saprai, ahimè la sconfitta delle azzurre contro la Danimarca nelle qualificazioni europee. Ma parlando di Champions, è finita sullo 0-0 Shakhtar-Inter, a Kiev un Inter imprecisa e sfortunata, perché in due occasioni sono stati respinti i tiri di Barella e poi di Lukaku dalla traversa, e poi Lautaro ha fallito una clamorosa occasione gol, occasione persa quindi per l'Inter per conquistare i tre punti. Sedicesimo di gioco invece a Bergamo, e anche in questo caso il risultato tra Atalanta e Ajax è ancora sullo 0-0, e pochi istanti fa è stato proprio l'Atalanta ad andare vicino al vantaggio. Anche in questo caso ottima occasione sprecata stavolta dal sinistro di Ilicic. Sottolineo solo che nel girone dell'Inter è finora al 17° di gioco 0-0 tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, così come nel girone dell'Atalanta il Liverpool, che nella prima giornata ha battuto l'Ajax, finora è sullo 0-0 contro i danesi del Midtjylland, che erano stati a loro volta battuti proprio dalla squadra di Gasperini. Ultima nota prima di restituirti la linea: le dimissioni del presidente del Barcellona Bartomeu, era grande nemico di Lionel Messi. Ricordiamo che domani c'è Juventus-Barcellona e siamo qui in attesa di sapere anche, ecco, c'è un'ansia, scusa se ti rubo altri 30 secondi, secondo un dispaccio Ansa, che rimanda una notizia diffusa dalla TV portoghese, Ronaldo sarebbe risultato ancora positivo al Covid nell'ultimo tampone fatto a 24 ore con la sfida col Barcellona. Adesso in attesa della comunicazione ufficiale della Juventus, però nel caso fosse vera questa notizia, Ronaldo non sarebbe della partita di domani, come non lo saranno diversi giocatori della Lazio impegnata a Bruges. Grazie Dario Ricci, poi ci dirai come prosegue la partita dell'Atalanta, mentre è vero che siamo a quest'ora, siamo di sera, però qualcuno ogni tanto, io dico, si potrebbe accontentare di un chinotto invece di qualcos'altro, perché poi gli fa scrivere: e brava Giordano che adesso è diventata, oltre che portavoce del governo, anche in maniera specifica di Ricciardi. Cioè, per questo ascoltatore, se io faccio sentire le voci di chi ci governa per capire che cosa vogliono fare, che intenzioni hanno, che cosa fanno, eccetera, o cosa non fanno, e siccome Ricciardi oggi è protagonista, al di là di come la si pensi, per la richiesta che ha fatto piuttosto forte, anche pensare perché l'ha fatta e perché così in pubblico, diciamo, invece di lavorare dietro le quinte da consulente del Ministero della Salute, per questo ascoltatore vuol dire essere amici. Quindi consiglio veramente un chinotto. Poi dice: ma perché in tutta coscienza non la sento mai criticare il fatto che in questi mesi, avendo precedentemente promesso che avrebbero dato le risorse di nuovo sulla centralità clinica, a parte che non so cosa significhi centralità clinica, ma insomma il sistema sanitario nazionale, ne abbiamo parlato infinite volte qui Effetto Notte, ma anche negli altri programmi. Quindi l'ascoltatore, insomma, se vuole continuare a seguire e quindi capire che cosa succede, bene, se no non so che cosa stia ascoltando. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie è qua che le dovete seguire, qui Effetto Notte, se a fine giornata volete essere informati su tutto ciò che di più importante bisogna sapere dall'Italia e dall'estero, e poi anche per riuscire ad approfondire, ad affrontare più dal di dentro alcuni argomenti in particolare che sono in primo piano, e naturalmente purtroppo gli argomenti da diversi mesi sono più o meno quelli centrali, sempre gli stessi. L'incidenza è il numero di nuovi casi in un arco di tempo in una popolazione, rapportata a un'unità di misura confrontabile che è quella di 100.000 abitanti. E vedete che sostanzialmente questa incidenza sta crescendo molto rapidamente, e in alcuni contesti regionali è più ricca e più alta che in altri. Il quadro è quello di un paese che, a parte poche aree, sostanzialmente è coinvolto in tutte le sue regioni. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, dicendo che i contagi in Italia, come nel resto dei paesi europei in particolare, continuano a salire. Nella prima parte della puntata, come sempre, vi ho dato conto dei dati del bollettino del Ministero della Salute. I nuovi positivi sono 21.994. A fronte di 174.398 tamponi, i morti sono 221, il dato più alto dallo scorso 5 maggio. Quindi, ha detto Brusaferro, il virus corre in tutta Italia, in particolare in certe regioni, in certe città. A questo proposito, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ministro Speranza, ha detto che vede come necessari dei lockdown a Milano e a Napoli, cioè due città dove sia che si vada al bar, che si vada al ristorante, che si vada fuori per strada, è facile contagiarsi, così ha detto Ricciardi. La Lombardia, la regione, ha detto però no, non ci sono attualmente le condizioni per operare in questo senso. Il sindaco di Milano Sala, lo sentiamo che cosa ha detto oggi nell'intervista al Corriere. Non credo che sia così nel rispetto di Ricciardi. Ho appena ricevuto un sms di un virologo di cui io mi fido molto, che dice: ieri c'erano circa 80 pazienti intubati a Milano e 201 in Lombardia. E noi ricordiamo i numeri di aprile, no? Che erano 1.500-1.700. Ma la conclusione è: anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un eventuale lockdown. Ma sulla questione di eventuali lockdown locali si è espresso anche Giovanni Rezza, che è il direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Lo avete sentito in parte all'inizio, sentiamolo anche in questo passaggio. È chiaro che quando la situazione sfugge completamente di mano in una determinata area, a quel punto una chiusura delle attività in quell'area può essere un'opzione da prendere in considerazione, anzi dovrebbe essere quasi un automatismo. E quindi si riferisce appunto a quelli che ha definito dei mini lockdown come un'opzione da prendere in considerazione per singole zone, appunto come insomma lo prevede come un automatismo nel momento in cui sia necessario. Ieri vi raccontavo delle divergenze anche interne alla maggioranza di governo sulle restrizioni del nuovo DPCM, in particolare con dei ministri dei 5 Stelle che si sono un po' smarcati, ma anche soprattutto Italia Viva di Renzi che ha detto che bisogna modificare questo DPCM, anche se Conte oggi ha ribadito no, le cose, le regole restano queste perché siamo in una situazione seria. E, insomma, la politica si divide, però vorremmo che almeno gli esperti riuscissero a trovare un punto di vista più o meno univoco, perché ci sono quelli che chiuderebbero delle intere città perché dicono i rischi sono veramente fortissimi, e altri invece che rassicurano, qualcuno anche un pochino più leggero, ma vorremmo che almeno appunto gli esperti, i virologi, i componenti del comitato tecnico scientifico, gli epidemiologi, i consulenti del Ministero della Salute, insomma, trovassero un punto d'accordo. Sentiamo che cosa ha detto anche la sottosegretaria alla salute Zampa oggi a Sky. Il parere degli esperti sono sempre stati molto divergenti tra loro. C'è il professor Ricciardi che dice che tutto questo non basta, ma c'è anche chi ha detto che tutto questo era esagerato e non ce n'era bisogno. Quindi, come vede, è un po' come quando ci si affida a un medico, bisogna avere fiducia. Noi abbiamo seguito le indicazioni e anche in una discussione, guardi, che non è stata semplicissima ed è stata molto approfondita dentro il Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo seguito quelle indicazioni. Allora, mi rivolgo con fiducia al professor Francesco Broccolo, virologo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e direttore del laboratorio CERBA di Milano. Professor Broccolo, è mai possibile, cioè, finché la politica uno pensa, ah, magari quello ha quell'interesse, quell'altro deve rispondere per il consenso a quell'altro, eccetera, eccetera, ma almeno voi, professor Broccolo, cosa sono le cose che bisogna fare, che si devono fare? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera, grazie professor. Per la fiducia su un argomento così delicato, dove è richiesta estrema responsabilità quello che si dice. Io credo che prima del lockdown ci siano delle fasi ancora che possono precedere il lockdown. Non dico che con certezza che non si debba arrivare al lockdown, ma che si debba provare a fare qualcosa di meglio, perché il lockdown francamente lo vedo come una sconfitta per l'Italia. Quindi io credo che si debba rivedere il nodo dei trasporti, non credo che si sia fatto abbastanza e credo che si possa scaglionare per orario l'utilizzo dei trasporti. Penso che si debba lavorare molto sui trasporti anche usando ad esempio trasporti privati con prezzi ovviamente calmierati, questo deve essere il governo a ragionarci, ma sicuramente il nodo dei trasporti, cioè non si può chiudere alcune attività che sono comunque legate ai trasporti. Non posso vedere chiudere ristoranti e palestre e vedere assembramenti sui trasporti, nelle metropolitane. È un controsenso, l'ho già detto altre volte, il virus si approfitta di questi controsensi e poi le misure prese non rendono giustizia. Quindi rischiamo di fare dei sacrifici che di fatto non portano a dei risultati reali. Quindi non parliamo di lockdown, parliamo di misure chirurgiche, ma chirurgiche in tutti i sensi, equilibrate. Anche il discorso della scuola rivedrei, cioè un bambino positivo e poi l'isolamento della classe intera, che cosa significa? Significa che quell'intera classe torna ad essere a casa e è a casa con chi sta, con i nonni, che sono proprio le persone più fragili. Quindi io lavorerei sui pazienti fragili e sugli anziani. Sono gli anziani che devono essere protetti e quindi bisogna impedire, evitare tutti quegli eventi che permettono all'anziano di essere esposto. Quindi sono gli anziani a non dover andare nei ristoranti, sono gli anziani ad evitare tutte quelle attività che permettono la diffusione del virus, perché la letalità scatta a livelli altissimi da 70 anni in su e su pazienti fragili. Dobbiamo quindi lavorare sugli anziani, questa è la mia opinione. Però professor Broccolo, lavorare sugli anziani, sono gli anziani, dice che non devono andare nei ristoranti, troppo in giro, nei luoghi affollati, però poi i giovani o i meno giovani, insomma, quindi figli, nipoti, eccetera, poi a casa ci ritornano e vivono fuori. Come si fa quindi a interrompere questa catena? Non è che si possono prendere i nonni e portare in un altro posto, no? Beh, certo, questo è proprio ancora più difficile nel nostro paese, dove sappiamo appunto che i nonni hanno un ruolo cruciale nella società italiana, ma appunto rivedrei anche questo discorso dell'isolamento dell'intera classe, dove poi i bambini stanno con i nonni, quindi si ha una amplificazione del contagio a mio modo di vedere. I bambini sono molto più sicuri a scuola anche in virtù delle misure che sono state prese. Solito discorso anche dei ristoranti, sono state prese delle misure molto efficaci. non è stato dimostrato, ad esempio, che i teatri sono un luogo di diffusione del virus, non ci sono dati scientifici, quindi io rivedrei tutte queste misure e lavorerei sugli anziani, cioè l'anziano deve tenere sempre costantemente una mascherina, non solo chirurgica ma direi FFP2, e quindi limitare al massimo le attività degli anziani. Io metterei delle linee guida molto rigide e strette per i pazienti fragili, per gli anziani, ma anche per la metropolitana devono ridurre assolutamente il loro utilizzo sui mezzi di trasporto, e anche in questo caso differenzierei i vagoni per gli over 60, gli over 70, i pazienti fragili e persone giovani e sane, e perché c'è una sensibilità molto diversa del giovane di tenere la mascherina sul naso, sotto il naso, rispetto a un anziano che ha paura e quindi è molto prudente. Quindi lavorerei in questo senso per proteggere gli anziani. Sono effettivamente delle idee, degli stimoli, professor Broccolo, un po' complessi, almeno nel mio piccolo, da realizzare, forse anche questo di prevedere dei vagoni. Vero. O degli spazi, no, sui mezzi pubblici soltanto per gli anziani. Senta. Ridurre all'80% sui posti a sedere, innanzitutto, e non su un totale, come ho già detto, teorico, qui non capiamo bene quale sia questo totale. Certamente sono cose difficili da mettere in pratica, ma il lockdown è una soluzione troppo facile. Professore, ma per quanto riguarda invece, appunto, lei diceva non ricorrerei a delle misure drastiche e andrei più in queste direzioni che lei ha elencato, ma per esempio per una città come Milano o come Napoli lei vede la necessità, rispetto alle norme e le restrizioni del PCM, di prendere provvedimenti più forti? Beh, ad esempio Milano vedo che è molto più sensibile e attenta rispetto ad altre città d'Italia, non voglio fare riferimenti, ma insomma gli assembramenti che vedo in altre città metropolitane non le sto riscontrando a Milano. Anche per quanto riguarda le aziende vedo molta attenzione da parte delle aziende a seguire dei flowchart diagnostici con test rapidi, che non so se è la stessa sensibilità viene utilizzata in altre città. Quindi Milano vedo una città molto, molto attenta, molto sensibile, probabilmente ha subito una specie di déjà vu, quindi è molto attenta. Anche passeggiando per la città vedo persone molto attente, quindi non trovo francamente corretto pensare a un lockdown su Milano. Vedo vari messaggi, Cristian che scrive: non è facile trovare il giusto equilibrio tra i provvedimenti imposti dall'emergenza sanitaria e la necessità di non affossare il sistema economico. Certo che quando gli ospedali avranno raggiunto la massima capienza la scelta sarà inevitabile in attesa dell'ormai mitico vaccino. Scrive Cristian. Lei ha toccato un argomento molto preciso, cioè sono i medici di base a dover attuare i protocolli e far sì da filtro e non far intasare i pronti soccorso. Pronto soccorso è un servizio gratuito, quindi è normale che vada in overbooking, in casi. Questo anche in era pre-Covid accadeva, quindi è normalissimo, ma c'è una grande responsabilità del medico di medicina generale che deve riuscire anche ad attivare protocolli a domicilio per impedire che gli ospedali si intasino, non solo il pronto soccorso ma anche le varie specializzazioni. Quindi il medico di base deve lavorare molto, dobbiamo potenziare questo aspetto, c'è molto da lavorare su questo aspetto, ma questo lo vedo già più complicato da attuare. Professore, dove stiamo andando per chiudere, secondo lei? Siamo davanti ad un bivio, abbiamo ancora credo una settimana per ragionare e pensarci e valutare i dati, non di più. Direi di non fare promesse per il Natale, pensiamo a cosa dobbiamo fare adesso, mettiamo in pratica subito diamoci degli obiettivi immediati per tutti, per tutta la società, per gli imprenditori, perché dobbiamo prendere delle decisioni non solo da virologi ma da medici e da persone che vivono con i piedi per terra in questa società. Grazie professor Francesco Broccolo. Allora, buona continuazione, buon lavoro, alla prossima professore. Grazie a voi, buona grazie. Serata. Voi continuate con i vostri messaggi, ne vedo tanti tra la pagina Facebook di Effettonotte, il 349-238-6666. Elena scrive: nei giorni scorsi pensavo che si potesse chiudere in modo selettivo, ora mi pare che la cosa sia sfuggita ovunque, mentre qualcun altro dice chiudere sarebbe affossare definitivamente l'Italia. Insomma, è questo equilibrio difficilissimo da raggiungere. Intanto tra pochissimo cominciamo a parlare degli indennizi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto con voi, anche se volete la giusta conduttrice Roberta Giordano, per accompagnarvi tutte le sere attraverso le notizie più importanti che dovete sapere, in modo che un giorno non direte io questa non la sapevo. Ci sono diversi vostri messaggi colpiti da quello che diceva il professor Broccolo a proposito della centralità degli anziani, della salvaguardia nei loro confronti. Prima di tutto c'è per esempio Antonella, la pagina Facebook di Effetto Notte, il numero per i WhatsApp 349-238-6666, e dice: grazie professor Broccolo per il suo buon senso e la sensibilità, una mamma novantenne, cerco di proteggerla e tutelarla al meglio. Mentre qualcuno dice, per esempio, vediamo, ecco qua, un altro ascoltatore dice: la semplificazione di Broccolo, che gli anziani hanno paura e si proteggono di più dei giovani, è una generalizzazione che non riscontro, dice, nella realtà. Dice questo ascoltatore, Freddy, psicoterapeuta, si firma. Poi invece un altro ascoltatore che è anziano dice: ma io già esco molto poco, se adesso mi impediscono di uscire ulteriormente perché sono una categoria protetta. Insomma, diciamo che la questione è davvero complessa. Mentre un altro ascoltatore dice che in realtà, dice Giordano, guardi che delle zone che si potevano fare sui mezzi pubblici apposta per gli anziani si potevano fare, c'erano 5 mesi di tempo, ma come fa a difendere ancora la cialtroneria di questo governo, eccetera eccetera. Non ho difeso la cialtroneria o meno di questo governo, ho detto che sinceramente è una buona idea, però poi metterla, realizzarla nel concreto, di fare degli spazi sia sulle metropolitane, sugli autobus eccetera, solo per gli anziani, mi sembra piuttosto complesso. Però sono d'accordo sul fatto che il trasporto pubblico locale non può rimanere con la capienza che continuiamo a vedere tuttora. Adesso passiamo al tema degli indennizi. Abbiamo appena varato in Consiglio dei Ministri il decreto Ristori. È un decreto che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro, che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori che sono direttamente interessati dalle misure restrittive di questo ultimo DPCM. Parlo quindi di ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, ma anche teatri, cinema, palestre, piscine, solo per citarne alcuni. Ecco, è stato varato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri appunto questo decreto ristori, e l'avete sentito nella spiegazione di Conte, per aiutare, per dare degli indennizi, quindi dei soldi a fondo perduto a tutte le attività produttive che sono costrette a chiudere dalle nuove regole restrittive oppure a ridurre i loro orari. Oggi Conte ha incontrato varie categorie, chi è più o meno soddisfatto, chi dice un primo passo, c'è ancora molto da fare, ha detto che quindi arriveranno complessivamente questi 5 miliardi in modo veloce. Sentiamo quanto veloce. I contributi a fondo perduto arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessate con bonifico dell'Agenzia delle Entrate. Ho già anticipato che questo è il metodo più rapido, efficace e sin qui sperimentato. Arriveranno in automatico nei prossimi giorni. Confidiamo che già a metà novembre chi aveva già aderito alla prima edizione del contributo a fondo perduto potrà riceverlo. Successivamente, subito dopo, anche gli altri. Oh, e qui saluto il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto, ti sei fatto due conti. Buonasera a tutti. Ciao, allora ti faccio sentire solo un altro passaggio, poi ti lascio la parola, dove per capire con quali criteri c'è il passaggio da chi era stato ristorato col decreto rilancio a questo decreto ristori, spiega, fa degli esempi Conte, sentiamolo, poi a te la parola. Un piccolo bar che aveva ottenuto 2.000 euro di ristoro con il decreto rilancio potrà ottenere adesso 3.000 euro. Un grande ristorante che aveva ricevuto 13.000 euro con il decreto rilancio potrà avere sino a 26.000 euro. Una piccola palestra che aveva ricevuto 2.000 euro con il decreto rilancio potrà ottenere 4.000 euro. Allora Alberto, come commenti questo decreto ristoro arrivato almeno velocemente così sulla carta, vediamo poi effettivamente sui conti correnti? Ma ecco, bisogna accoglierlo favorevolmente, perché comunque questo semi-lockdown, questa fase 2 drammatica, naturalmente azzoppa di nuovo l'economia e crea ulteriore trauma anche psicologico, molto più di prima, e quindi fare rapidamente un tentativo per porre rimedio è un gesto importante, utile. Ora bisogna che la procedura sia conseguente agli annunci, perché effettivamente però il primo esperimento che ha utilizzato l'Agenzia delle Entrate con l'Agenzia delle Uscite, diciamo la verità, aveva funzionato, perché era risultata molto più efficiente per esempio del meccanismo erogativo dell'INPS, che tante tragedie ha creato poi a chi ha dovuto gestire la cassa integrazione in proprio perché i denari dell'INPS non arrivavano mai. Quindi replicare questo tipo di esperienza potrebbe essere positivo. I miliardi ci sono, 5,4 che poi ne attivano 6,2, sono frutto sostanzialmente dei risparmi rispetto ai bonus precedenti, perché alcuni dei bonus avevano coperture generose e non c'è stato l'effetto tiraggio che si era immaginato. C'erano per esempio alcuni risparmi sulla cassa integrazione, altri che so sul bonus turismo, probabilmente anche su queste cose tipo il bonus donni. Perché in effetti la domanda che ti volevo fare, Alberto, visto che appunto bisogna risistemare il sistema sanitario, investire, ci vogliono investimenti in vari settori, ovviamente ci vogliono tutti questi ristori, indennizi per tutte le categorie che vengono penalizzate malgrado tutto, questi soldi effettivamente da dove si tirano fuori? Tu hai detto che quindi da dei risparmi, da delle spese che non ci sono state, quindi? Ma insomma sì, questo diciamo che sono 5 miliardi rispetto alle cifre che abbiamo imparato a conoscere, sono poca cosa per così dire, sono un intervento rapido e molto contingentato nel tempo, in parte appunto è frutto di risparmi rispetto a cifre che erano già state stanziate e in parte, ha detto Gualtieri, è anche frutto del rimbalzo forte che nel terzo trimestre ha avuto l'economia, che ha consentito di aumentare il gettito dell'IVA, che è un po' superiore alle aspettative, quindi hanno raggranellato qualche milione o anche di più forse attraverso l'aumento dell'IVA. È vero che in termini però più strategici, più strutturali e più di lungo periodo non può essere questo il modo con cui si finanziano le cose, perché prima o poi i denari finiscono. Il mitico recovery fund europeo dovrà essere ancorato a progetti molto specifici di investimento e non certo a cose che consentiranno di tamponare le uscite di cassa. E quindi se vogliamo tornare al vecchio tema del MES, io penso che effettivamente il MES resti in campo come modalità di finanziamento di progetti che poi sono comunque molto legati a impatti sanitari dovuti al Covid, diretti o indiretti, come per l'appunto prescrivono le regole di attivazione del MES. Ecco, vedo il messaggio di un ascoltatore che dice... una ascoltatrice, Elisabetta, buonasera, mi scusi, come al solito il governo non considera il turismo un'agenzia di viaggi, avevo richiesto il contributo che scadeva il 13 agosto ma non ho ancora ricevuto nulla, risulta elaborato perché i dati da me inseriti sono corretti, ora eccetera eccetera, cioè, non si capisce il resto del messaggio, però sentiamo quest'altro passaggio ancora di Conte dove parla di altre misure, vediamo se magari si ritrova qui l'ascoltatrice. Oltre ai ristori a fondo perduto, le stesse categorie potranno beneficiare di altre misure. Credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. L'esenzione della seconda rata IMU, che è in scadenza il 16 dicembre. La sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre. L'indennità specifica per i lavoratori dello spettacolo, del turismo, pari a 1.000 euro per ciascuno. Ci sarà un fondo di 100 milioni per sostenere la filiera agricola e il settore Horeca e poi ancora per tutto il settore agricolo cancelliamo la rata di novembre dei versamenti dei contributi per i lavoratori. Insomma, un primo passo è fatto, vediamo un po' che cosa succede nelle prossime settimane, Alberto. E qui ci lasciamo, volevi aggiungere una cosa proprio in due secondi? È un primo passo sicuramente, certo riguarda 462.000 imprese nel complesso, sono 100.000 in più di quelle che erano state preventivate, perché erano 350.000 quelle che avevano attinto alla prima edizione del bonus in maggio. Vedremo, insomma, per ora questo è sicuramente uno strumento di pronto soccorso. Pronto soccorso però per non si può andare avanti con queste cose qua, è evidente. Chiaro, bisogna che la pandemia finisca e si facciano investimenti di lungo periodo. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro al Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Grazie. Ciao. Buonasera. Ci sentiamo un momento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E quindi parliamo anche del sistema sanitario nazionale, al di là del poco fiducioso ascoltatore di prima, tante volte siamo tornati a parlarne e ritorna anche un forte allarme dal principale sindacato italiano dei medici ospedalieri, ANAO Assomed, che ha redatto anche un rapporto e che dice che il decreto rilancio ha previsto un incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva, 4.225 in subintensiva, ma chi è che manca? Mancano gli esseri umani, mancano gli specialisti che non sono sufficienti, mancano ben 4.000 medici, ossia 2.000 rianimatori, 2.000 tra infettivologi, pneumologi, internisti, oltre 7.000 infermieri. E così, dottor Carlo Palermo, segretario generale di ANAO Assomed, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore. Certamente il dato è molto preoccupante, quello della carenza dei medici. Oltre ai numeri che lei ha ricordato, bisogna sottolineare che veniamo da una condizione di carenza cronica, perché mancano almeno 6.000 medici e 2.000 tra biologi, chimici, e questa carenza è legata al taglio del personale che abbiamo subito dal 2009 fino al 2018. Parliamo di un decennio, quindi. Il decennio dei tagli in sanità. La sanità era diventata il bancomat attraverso il quale raggiungere gli equilibri di bilancio a livello regionale o a livello delle aziende sanitarie. E in più abbiamo un altro dato che bisogna ricordare, che siamo nella parte alta della curva di pensionamento, che ha un picco che determina un'uscita annuale di circa 6.000 medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. È un mix esplosivo, ecco perché noi invitiamo le aziende, le regioni e le aziende ad assumere attraverso contratti agili a tempo determinato, in modo da far fronte all'emergenza. Se non sono disponibili specialisti, perché è stata completamente sbagliata la programmazione dei fabbisogni, cerchiamo di assumere gli specializzandi degli ultimi 2 anni, altrimenti quei letti di terapia intensiva o di subintensiva, pur avendo le ruote, viaggiano, non possono certamente viaggiare da soli. Certo, ma dottor Palermo, hanno bisogno di personale qualificato. Le regioni possono fare tutto questo? Possono decidere di assumere a tempo determinato, adesso perché è un'emergenza e poi si spera per chi lavora, perché viene assunto poi a tempo determinato? È una questione economica, è una questione di finanziamento. Lo Stato ha già messo a disposizione una certa quantità di risorse con i decreti precedenti, e l'epidemia sta mettendo sotto pressione tutte le strutture ospedaliere. Se vi fossero problemi dal punto di vista del finanziamento, ricordiamoci che abbiamo un finanziamento messo a disposizione dall'Europa, che è il MES. Esiste una linea di credito ben particolare che detta che supporto alla crisi pandemica, e lì la possiamo prendere. Sa che c'è tutta una questione politica, diatriba all'interno del governo stesso, chi la vuole, chi non lo vuole, insomma, però lì prima o poi bisognerà muoversi. Questi allarmi voi continuate a lanciarli, a un certo punto è per il bene della collettività, non possiamo stare senza specialisti, senza infermieri, senza internisti, pneumologi, eccetera, eccetera, come diceva lei, altrimenti appunto se l'attrezzatura anche c'è non può funzionare da sola. Speriamo che tutti questi allarmi non cadano nel vuoto, che qualcuno ascolti, perché ha la responsabilità di ascoltare e di agire. Grazie dottor Carlo Palermo. Grazie a voi. Grazie davvero, buon lavoro. Ora spazio ancora al calcio con la Champions League con il nostro Dario Ricci. Come prosegue la partita dell'Atalanta, caro Dario? Direi malino, una serata un po' nera per le italiane in Champions. Ricordiamolo 0-0 con cui l'Inter torna da Kiev contro lo Shakhtar, un Inter che ha sprecato molto due traverse colpite con Barella e Lukaku, un'occasione clamorosa fallita da Lautaro, e addirittura peggio sta andando all'Atalanta a Bergamo alla fine del primo tempo, padrone di casa sotto per 2-0 contro l'Ajax che è passato in vantaggio al 38esimo col calcio di rigore di Tadic per un fallo di Gosens su Traoré, lo stesso Traoré con un tocco sotto misura in mischia ha raddoppiato per i lancieri al 38esimo. Da segnalare, Roberta, che nel girone dell'Inter, tra l'altro, risultati a sorpresa all'ordine del giorno, perché il Real Madrid, che nella prima giornata aveva perso in casa con lo Shakhtar, è sotto di un gol sul campo del Borussia Mönchengladbach, quindi in questo momento è ultimo addirittura nel girone, mentre nell'altra sfida del raggruppamento dell'Atalanta è 0-0 tra Liverpool e Midtjylland. Ti ricordo poi infine che domani grande attesa per Juventus Barcellona e anche per Bruce Lazio. Ebbene, nella Juventus ormai al 99% non ci sarà Cristiano Ronaldo. La TV portoghese ha dato in esclusiva la notizia della confermata positività di CR7 anche all'ultimo tampone prima del match di domani, e nella Lazio ben 13 gli assenti tra infortunati e probabilmente positivi al Covid in questa difficile trasferta in terra di Belgio. Grazie Dario Ricci, grazie Dario Ricci, buon proseguimento della partita. Noi ci dobbiamo fermare qua, sapete che torno poi in ratta con la Folgore alle 22.